Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte. Prova 1. Ascolta i testi e poi scegli la frase giusta. Per favore, un cornetto e un cappuccino. Il cornetto alla marmellata? Sì, grazie. Subito. 1. Vorrei 3 biglietti per lo spettacolo. Sono 18 euro. Posso pagare con la carta di credito? Sì, certo. 2. Vorrei prenotare 2 camere singole. Per quante notti? Per 3 notti. Bene. 3. Scusi, l'hotel Roma è molto lontano? No, è vicino. È in fondo alla strada a destra. Posso andare a piedi? Sì, certo. 4. Buongiorno, vorrei frequentare un corso di inglese. Per quante settimane? 8 settimane. Il prossimo corso comincia fra 1 settimana. 5. Ciao Nicoletta, dove vai? Vado in banca, e tu? Io vado al lavoro. Buona giornata. 6. Avvertiamo i signori viaggiatori che il treno Frecciarossa delle ore 7:30 per Milano è in partenza dal binario 7.